Salve a tutti, sono Sandro Barone da Salpinaz. Come ogni trasmissione, luogo dove si presenta jazz o si parla di jazz, ogni rivista diciamo, si presenta a fine anno la top ten, quindi non poteva mancare quella di Salpinaz. E quindi oggi ascolteremo la top ten, perlomeno, naturalmente sempre soggettiva come scelta, di Salpinaz durante tutto l'anno. Teniamo conto che Salpinaz è una trasmissione che dove passano più o meno 130 dischi all'anno, quindi piuttosto nutrita, con un'attenzione particolare sulle nuove produzioni. Quindi ecco, di questa top ten non fanno parte sia le ristampe naturalmente, ma neanche le produzioni che hanno recuperato dal passato, come per esempio straordinaria quella di Monk che è stata quest'anno, oppure anche di Bill Evans. Sono novità, le novità di quest'anno che rappresentano quelle che sono le nuove tendenze. Ci sono alcuni che sono indiscutibili, che probabilmente faranno parte un po' di tutte le graduatorie, altri che sono anche per altri dischi che sono anche per sollecitare una certa curiosità, una certa attenzione, che presentano appunto caratteristiche di particolare interesse. Il primo, non c'è un ordine di priorità, quindi è un elenco, sono 10 a pari merito, diciamo, anche se questo non è, però sono 10 a pari merito. Il primo è Craig Taborn, un disco uscito per l'etichetta ECM, intitolato Dialing Ghosts, e con una formazione di lusso, Chris Peed, Chris Lycap, Dave King e naturalmente Taborn alle tastiere. Ascoltiamo un brano. Thank you. era Craig Taborn con The Light Ghosts. E dicevo che questa è una top ten, ma i musicisti che vengono, diciamo, segnalati, non dico premiati perché non ricevono alcun premio da questa classifica ovviamente, però si tiene conto anche poi delle attività che hanno svolto durante quest'anno, molto intensa quella di Craig Taborn, come quella anche di Matt Mitchell, del quale ascoltiamo adesso un brano preso da un disco, anche questo appunto segnalato tra i migliori per me, dove Matt Mitchell esegue musiche di Tim Berne, un disco uscito per la Screwgun, l'etichetta di Tim Berne, e si intitola Forage. Thank you. era Matt Mitchell con musiche di Tim Berne, Forage. E altro lavoro interessante, bello, uscito quest'anno, è una collaborazione di Kong Wu, trombettista tra i migliori dell'ultima generazione, diciamo, o penultima generazione, con Bill Frisell. Hanno eseguito insieme in un quartetto, quindi accompagnati anche da Luke Berman alla batteria, da Ted Poor al basso, o viceversa, anzi, un disco dedicato alle musiche di Michael Gibbs, si intitola Ballet. Thank you. era Kung Fu con Bill Frisell su musiche di Michael Gibbs. Altro discorso interessante quest'anno è stato un disco della Clean Feed. Non sono molti dischi della Clean Feed di grande valore. Questo, a mio avviso, riesce a raggiungere l'obiettivo. Mario Pavone, un sideman che ha lavorato molto e lavora molto anche come leader dei propri gruppi, anche formazioni in trio, era il bassista di Thomas Zappin. È uscito un sestetto intitolato Vertical, con musicisti importanti nella formazione: Dave Ballow alla tromba, Tony Malaby a sax tenore, Oscar Noriega ai clarinetti, poi Peter McEacher al trombone e Mike Sarin, il solito collaboratore, alla batteria. Quindi formazione anche di musicisti molto lontani nella propria logica estetica. E il risultato però è di grande livello. Thank you. era il sestetto di Mario Pavon, l'ultimo lavoro intitolato Vertical per la Clean Feed. Il prossimo che ascoltiamo, Matt Wilson. Matt Wilson, batterista, anche compositore e arrangiatore, ha firmato una delle cose più belle di quest'anno, un disco intitolato Onion Salt, uscito per la Palmetto, etichetta minore, per la quale ormai escono poche cose, però in questo caso decisamente interessanti. Matt Wilson ha sempre cambiato la propria formazione, però contornandosi sempre di musicisti di primo livello. In questo caso una piccola formazione con Ron Miles alla cornetta, e ormai ben conosciuto, e Jeff Lederer alle anse. Lederer è uno dei sassofonisti più interessanti dell'ultima generazione, giovane, con un linguaggio molto caratterizzato. E una cosa curiosa, c'è un gruppo di voci che cantano, diciamo, di collaboratori, musicisti importanti, che cantano dei motivetti, intervengono, diciamo, in alcuni di questi momenti. E tra questi ci sono, non so, Christian McBride o John Scofield, Carla Bley, Bill Frisell, Joe Lovano, Rufus Reid. Quindi veramente un parterre incredibile, però di cantanti. E ascoltiamo tra l'altro un brano che dà una chiara idea dell'ironia profonda di Matt Wilson e dell'utilizzo che viene fatto di questi collaboratori, questi musicisti. Lavoro decisamente narrato questo di Matt Wilson, che si ascrive proprio tra le cose di musica americana tout court, tra un bel lavoro con queste tipologie, con queste caratteristiche. Ben diverse le caratteristiche di uno dei giganti, a mio avviso, e non solo a mio avviso, del jazz contemporaneo, che è Steve Coleman, che ha prodotto quest'anno un lavoro con piccola formazione intitolato Morphogenesis, uscito naturalmente anche questo per la P Records. I collaboratori di Steve Coleman sono Jonathan Finlayson, come diciamo abbastanza i soliti. Finlayson alla tromba, poi Maria Grand, ecco, al tenore, René Moore al clarinetto, poi Jens Yu alla voce, Matt Mitchell, ecco, lo ritroviamo Matt Mitchell anche con Steve Coleman, e poi una percussioni, diciamo, le più varie. Ascoltiamo un brano. Thank you. Era Steve Coleman con la sua formazione in un lavoro importante, questo Morphogenesis, che testimonia anche un cambiamento, il tentativo di un cambiamento nello stile espressivo, anche nella ricerca musicale di Steve Coleman, una tappa importante. Altro lavoro di grande levatura, anche estetica in questo caso, Visai Ayer nel suo sestetto, uscito per l'ECM, Far From Over, la formazione e quella con Steve Lehman. Ecco, si nota una notevole importanza di Steve Lehman al sax contralto, poi anche di Mark Shim al sax tenore. Ascoltiamo un brano. Thank you. Una dimenticanza, quella della batteria di Tichai Sorey nel sestetto di Vijay Iyer che abbiamo appena ascoltato, Far From Over. Altro musicista, pianista, Roberto Negro, italiano, anche se vive a Parigi da molto tempo, si rende protagonista di un lavoro, un gruppo con un progetto intitolato Da-Da-Da, Trio Da-Da-Da, e con la collaborazione di Michele Rabbia alle percussioni e di Emile Parisien al sax soprano, un lavoro eccellente che abbiamo ascoltato anche dal vivo a Saalfelden quest'anno. Trio di Roberto Negro, Da-Da-Da, questo notevole progetto del quale speriamo di sentire ancora parlare, e tutti i dischi ascoltati finora, che abbiamo presentato fino adesso, sono stati anche trasmessi lungo le puntate di Saalfelden durante l'anno. L'unico che manca è Tim Berne, Skin Oil, l'ultimo uscito per le CN, intitolato Incidentals, dove vede anche la collaborazione di David Thorne alla chitarra, oltre alla formazione classica solita di Tim Berne al sax, Oscar Noriega, lo ritroviamo ancora una volta al clarinetto, Ryan Ferreira alla chitarra, Matt Mitchell, decisamente il più presente nella classifica, al pianoforte, e Chase Smith alla batteria. Ascoltiamo una parte di un brano di questo magnifico disco. era la formazione Skin Oil di Tim Berne, inconfondibile in questi piani sovrapposti, questi moti perpetui che si rincorrono, dove diventa difficile anche, tratteggiare un pezzo da poter togliere da queste composizioni intricate. Decisamente bravissimi musicisti a riuscire ad eseguire perfettamente questa musica e anche svilupparci sopra i temi. Il disco è intitolato Incidentals, uscito per l'ECM recentemente, è preso da registrazioni fatte però alcuni anni passati. David Thorne è una figura che raramente può far parte di qualche incisione, ma sicuramente sempre dietro le quinte della produzione, della preparazione del suono, e sempre anche il produttore, per esempio, della Screw Gun, l'etichetta di appartenenza di Tim Berne. Quindi un collaboratore che da molti anni, da più di una ventina d'anni, Tim Berne ha la possibilità di frequentare, di aver vicino, oltre che ottimo chitarrista. Ultimo disco un po' particolare, forse difficilmente può far parte delle graduatorie, delle top ten, è Chris Speed Trio, un disco un po' dietro le quinte, che è stato proposto dall'etichetta Intact, intitolato Platinum on Tap, ed è... La formazione in trio è quella con la quale hanno già fatto diverse tournée Chris Speed, accompagnato da Chris Tordini al contrabbasso e da Dave King alla batteria. Dave King, devo dire che l'uscita dai Bad Plus, cioè, o perlomeno le esperienze esterne ai Bad Plus, sono di grande livello. Quindi abbiamo aperto con Craig Taborn, con questo interplay tra Chris Speed e Dave King, chiudiamo appunto con un brano che ricorda ed è un omaggio a Albert Tyler, il brano intitolato Spirits. Thank you. Questo era il trio di Chris Peed con Dave King alla batteria e Chris Tordini al basso. Così si conclude anche la rassegna dei 10 album proposti nella top 10 di Salpinaz, anche se per la verità ce ne sarebbero altrettanti, quantomeno altrettanti, da porre all'attenzione. Quindi è una scelta in alcuni casi